Sono alla presentazione della stagione del Deon e sono in compagnia di Lorenzo Bombacini, fondatore storico dei Bononi Sound Machine, che quest'anno festeggiano, essendo stati fondati nel lontano ormai 1992, festeggiano i 30 anni di carriera. Ciao, innanzitutto è un piacere essere qui con te oggi. Sì, sono 30 anni di carriera, un bel percorso lungo, una bella esperienza musicale e ovviamente tanta voglia di continuare su questa strada e andare sempre avanti senza limiti. Voi avete una storia veramente lunga e prestigiosa, avete fatto 5 album nel tempo e avete suonato anche in posti abbastanza prestigiosi, il Porretta Sound Festival e il Blue Note di Milano. Adesso però tornate fuori con un album nuovo di cui adesso tu ci parli. Certamente, noi da qualche mese siamo usciti con il nostro ultimo progetto discografico che è un tributo alla musica dei Beatles. Ovviamente cimentarsi con questi mostri sacri non è mai facile, è stata una bellissima sfida, ci ha visto molto impegnati. Abbiamo realizzato in prima battuta uno spettacolo teatrale che ha avuto un buon successo e da lì è nata l'idea di fare anche un disco. Abbiamo cercato di mettere sia il nostro stile che un po' di black music nella musica dei Beatles, senza dimenticarci che i Beatles erano dei grandissimi appassionati di black music, di musica soul, soprattutto della Motown, e quindi insomma, a noi l'esperimento è piaciuto veramente molto ed è stato estremamente gratificante. Quindi questo progetto discografico è nato da un lavoro teatrale che era imperniato sempre sui Beatles? Assolutamente sì. Qualche anno fa, nel 2014, eravamo a Londra, e questo non è evidentemente un caso, a vedere dei concerti, e ci è venuta l'idea, l'ispirazione di fare questo tipo di esperimento. E la cosa, oltretutto, è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di musicisti americani che suonano nel nostro CD, che sono membri ed ex membri dei Tower of Power, band storica californiana, anche lei con più di 50 anni di attività alle spalle, con la quale negli anni abbiamo costruito un buon rapporto di amicizia e collaborazione e quindi ci hanno dato una mano anche questa volta a realizzare i nostri progetti. Vedo che la formazione della band è particolarmente estesa come organico. Sì, allora, innanzitutto una cosa secondo me importante è capire il punto di partenza. L'idea di fare una band di questo tipo nasce dai Blues Brothers, poi si sviluppa con lo studio della musica, con lo studio dei maestri, con lo studio delle altre band, con le nostre produzioni musicali, ma nasce da lì. E quindi l'idea di avere la sezione ritmica, la sezione fiati è sempre stato un pallino ed è estremamente importante per il genere che facciamo. Siamo in 12, abbiamo una sezione fiati di 6 elementi e ovviamente una sonorità poderosa perché 12 elementi sul palco, due cantanti, voce maschile e voce femminile, insomma ci permettono di fare veramente tante cose. Quindi ascolterò quanto prima il disco di cui ricordiamo il titolo, mutuato chiaramente dai Beatles. Let It Be a Sam, e approfitto anche per dire che ha la copertina del maestro Giorgio Carpinteri, grandissimo illustratore italiano con un curriculum veramente invidiabile. Perfetto, grazie Lorenzo. Grazie a voi, grazie ancora, ciao.